parli sempre tu. E non vuoi mai capire che qualcosa fra noi non funzionerà mai. Vinci sempre tu. Io non so cosa dire, perché alla fine sei tu che ha una parola di più. Ma adesso parlo io e tu mi ascolterai. Se non ti sta bene poi, io per i fatti miei, tu per i fatti tuoi, non ne posso più. Chi comanda sono io, chi c'ha la gonna sei tu, e non torniamoci su. Parli sempre tu e non vuoi mai capire che qualcosa fra noi non funzionerà mai. Vinci sempre tu. Io non so cosa dire, perché alla fine sei tu che hai una parola di più. Ma adesso parlo io e tu mi ascolterai. Se non ti sta bene poi, io per i fatti miei, tu per i fatti tuoi, non ne posso più. Chi comanda sono io, chi c'ha la gonna sei tu, e non torniamoci su.